GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Varsi dalla settimana decisiva, possibile svolta sul blocco dei motori da consegnare, continua il presidio dei lavoratori davanti alla fabbrica che il gruppo finlandese vorrebbe dismettere. Grave, un ragazzino di 13 anni investito a Pasean di Prato attraversava con la bicicletta sulle strisce pedonali. Incendi boschivi, la minaccia dei comportamenti sconsiderati, rogo partito da un falò a Padriciano e a Trieste, 3 episodi al parco del Farneto. Turismo, il pienone di Ferragosto, anche gli stranieri fanno lievitare le presenze sulle spiagge, le scelte degli austriaci raccontate da una giornalista carinziana. L'alternativa dei laghi, il fascino di Fusina e del bacino di Predil, ma la carenza d'acqua stravolge il paesaggio. Spilimbergo in centinaia per la rievocazione storica della macia che oggi arriva al culmine. Pronti 2000 fuochi d'artificio per l'incendio del mare di questa sera a Lignano, saranno 20 minuti di spettacolo, promette chi l'ha allestito. Nostra intervista. Calcio, nessun pareggio nella prima giornata di Serie A, l'Udinese si consola con altre 9 squadre e prepara il debutto casalingo contro la Salernitana. Martedì 16 agosto, sono le 7:20 minuti, buongiorno da Giampaolo Mauro e Francesca Terranova. Subito uno sguardo alla situazione del tempo, nuvolosità variabile sulla regione, ci sono state piogge notturne, le più abbondanti su Gemonese e Carso Triestino, una decina di millimetri. Vediamo le temperature registrate alle 6, a Trieste 20,5 gradi con mare poco mosso, l'acqua a una temperatura di 23,5 gradi, a Udine, a Gorizia, a Pordenone 19 gradi. Nell'area montana a Tolmezzo 18,5 decimi, a Tarvisio 13,5 decimi, a Sappade sul Piancavallo 12, a Forni di Sopra 13, in quota abbiamo 11 gradi sullo Zoncolan, 10,5 sull'Ussari, a Lignano 21,5 gradi, a Grado 21, temperatura del mare 24,5 gradi. Le previsioni di ARPA FVG oggi, previsioni in parte incerta, in mattinata cielo variabile o nuvoloso con possibili locali rovesci o temporali, specie su pianura e costa, non si esclude che qualche isolato temporale possa essere più forte. Dal pomeriggio probabile maggiore stabilità con schiarite, soffieranno venti moderati tra sud ed est, specie sulla costa. Potrebbe essere una settimana di svolta nel braccio di ferro fra la Varzida e i lavoratori che con i portuali in stato di agitazione stanno cercando di frenare il trasferimento dei motori già pronti verso i destinatari. Intanto i dipendenti dello stabilimento di San Dorligo della Valle, circondati dall'affetto dei cittadini che hanno portato nella giornata di Ferragosto solidarietà e genere di conforto, hanno continuato anche ieri il loro presidio davanti alla fabbrica che il gruppo finlandese vorrebbe chiudere. Io spero un Ferragosto di questo genere di non trascorrerlo mai più nella mia vita, perché comunque è un momento molto difficile. Nelle parole di questo lavoratore c'è tutta la speranza dei 450 dipendenti della Varzida di Trieste e delle imprese dell'indotto di non passare mai più un Ferragosto ai cancelli dello stabilimento di Bagnoli. Decisione che era stata presa il 14 luglio per opporsi al trasferimento della produzione di motori marini in altri siti esteri della multinazionale finlandese. Una giornata passata al caldo sotto le tende, con alcune inaspettate visite di privati cittadini pronti a portare la solidarietà ai lavoratori, come questa signora che ha consegnato un vassoio di dolci. E questo c'è, questo c'è in mano, adesso tante ditte in mano straniere. Un presidio fatto anche per evitare che possano uscire dal sito produttivo camion con a bordo propulsori pronti per essere consegnati alla clientela di tutto il mondo. Possibilità remota dopo che le maestranze del porto di Trieste avevano dichiarato la volontà di non imbarcare prodotti del gruppo Wärtsilä. Fabio Canedisek della FIMCISL. Wärtsilä si sta comportando in maniera non corretta, dirottando il più possibile gli ordini che erano destinati qua in Italia e in Finlandia. E poi, diciamo, tutti i camion che sono arrivati qua, nessuno ha fatto delle forzature. Preoccupazione, ma anche qualche timido sorriso tra le facce dei lavoratori presenti. Qualcuno porta moglie e figli, a testimonianza che la battaglia per il posto di lavoro coinvolge l'intero nucleo familiare. Siamo tutti con debiti, bambini più o meno piccoli, i motori che facciamo qua ci danno pane, ci danno da mangiare, quindi è chiaro essere preoccupati ed è anche giusto fare quello che stiamo facendo. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. È ricoverato in grave condizione un ragazzino di 13 anni investito ieri sera da un'auto a Pasian di Prato mentre attraversava la strada con la sua bicicletta sulle strisce pedonali nella frazione di Santa Caterina. L'allarme al 112 è arrivato poco prima delle 19.30 e la sala operativa per l'emergenza ha inviato sul posto un'autoambulanza e un'automedica. Inizialmente il ragazzino, sbalzato a 10 metri di distanza dopo l'impatto in condizioni critiche, è stato soccorso dalle persone che in quel momento si trovavano sul posto e dalla stessa conducente dell'automobile. I sanitari lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto al pronto soccorso in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico e una frattura ad una gamba. È stato un ferragosto di presidio, sorveglianze e lavoro, anche quello dei vigili del fuoco, dei forestali e dei volontari di protezione civile impegnati sui luoghi degli incendi. Gli ultimi episodi alle prime ore di ieri sul Carso triestino, nella zona di Padriciano, e a Trieste nella zona del Boschetto, davvero a pochi passi da aree densamente abitate. Due focolai nel primo pomeriggio e poi un terzo principio di incendio, subito domato dal pronto intervento dei vigili del fuoco, ieri sera verso le 21.30. Sulla giornata di ieri abbiamo raccolto alcune testimonianze, le ascoltiamo partendo da quella di Antonio Capovilla, commissario del Corpo Forestale regionale. In questo momento la criticità della situazione impone di essere presenti e quindi noi siamo stati presenti. Stefano Campaiola, funzionario dei Vigili del Fuoco di Trieste. Con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha anche stipulato ormai da anni una convenzione proprio per avere personale Vigili del Fuoco in più a supporto proprio dedicato a questa attività. Un giorno di ferragosto a vigilare nei boschi con pattugliamenti misti nell'arco delle 24 ore. Alexei Budin, capo squadra protezione civile Sgonico. Sicuramente la moglie non è contentissima, ma quando si ricorda l'inferno di qualche giorno fa, dopo si calma un po', ecco. Francesco Fattorello, coordinatore protezione civile Duino. La voglia di aiutare il prossimo ed essere presente per il proprio territorio, soprattutto nelle grandi calamità come in questo caso, che hanno colpito tutto il nostro tessuto sociale. Giuliano Ghiardol, capo squadra protezione civile Trieste. A me viene in mente un principio scout, io sono anche scout, che è lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato. Bruno Tribuson, capo squadra protezione civile Trieste. Siamo volontari essenzialmente perché abbiamo a cuore il nostro territorio, il bosco, la natura. Soprattutto quest'anno che il nostro territorio è stato devastato da molti incendi, ci teniamo pronti. Trieste, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato un ferragosto di spiagge piene in Friuli Venezia Giulia tra pendolari del mare e turisti con molti stranieri sotto l'ombrellone. Agosto non è più solo il mese delle vacanze degli italiani, osserva Salvatore Sapienza, coordinatore regionale del sindacato Italiani Balneari. Arrivano da Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, mentre a luglio in particolare sono state registrate diverse presenze dalla Repubblica Ceca. In compenso, soprattutto a Lignano, sono mancati i russi. L'emergenza sanitaria, spiega ancora il coordinatore del sindacato Balneari, ci ha inoltre fatto riacquistare una clientela che ha riscoperto il litorale regionale. Dunque il Covid e i rincari non hanno fermato il turismo in regione. Vanno alla grande soprattutto gli affitti di case vacanze e campeggi. Ferragosto finalmente da tutto esaurito, o quasi, nelle località balneari del Friuli Venezia Giulia. Dopo due anni di exploit della montagna, quest'anno è il mare che torna a farla da padrone. Spiagge affollatissime un po' ovunque e tanta voglia di relax e tintarella. Boom di presenze a Grado, dove a detta di chi lavora nel settore la stagione sta andando meglio che nel 2019, ultima estate pre-Covid. A fare la parte del leone sono i turisti stranieri, ben il 70% del totale, tornati in massa ad affollare le spiagge dell'Isola del Sole, soprattutto austriaci, tedeschi e olandesi. Molto bene anche i camping, riscoperti durante la pandemia perché garantiscono un'esperienza all'aria aperta. Ottime presenze di turisti anche a Lignano, con numeri molto vicini a quelli pre-pandemia. anche se nella località friulana non c'è stato il tipico sold out ferragostano, ammette Enrico Guerin di Confcommercio. Il Covid non è sparito e le disdette dell'ultimo minuto non mancano. A ciò si aggiungono i rincari nei prezzi dell'energia e materie prime, oltre alla cronica carenza di stagionali. Ma nel complesso il trend è positivo e gli operatori turistici lignanesi sono soddisfatti. Quest'anno ad andare per la maggiore sono però soprattutto gli appartamenti in locazione, ha detto la presidente regionale di Federalberghi Paola Schneider, affittati sempre più spesso con contratti mensili o stagionali. Gli albergatori sono comunque soddisfatti, complice il gran caldo, al mare la stagione turistica è iniziata presto e da giugno ormai si sta lavorando a pieno regime. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ci sono anche le rive dei laghi, spesso incantevoli come quelli del nostro nord-est, ma questa volta la siccità rovina l'incantesimo. A 20 chilometri di distanza, due laghi montani si mostrano ai turisti di Ferragosto spogliati dalla siccità di tutta la loro bellezza. Quello superiore di Fusine è quello del Predil. Nel bacino, non lontano dalla vecchia miniera, mancano all'appello più di 7 metri d'acqua. Ma oltre a quest'ultima, non ci sono più ombrelloni, lettini, scivoli, pedalò e kayak. Quest'anno siamo rimasti male perché abbiamo portato anche degli amici dicendo vedrete che meraviglia e siamo arrivati su e... abbiamo trovato le fondamenta dello chiosco che non c'è più e siamo rimasti abbastanza male. Niente più centro nautico balneare né quello di windsurf, qui per 20 anni. Investimenti privati cofinanziati dall'Unione Europea per rilanciare l'economia turistica della zona. Complicata la vicenda burocratica, la proprietà del terreno è demaniale, ma in assenza delle varianti al piano regolatore del comune per installare le strutture non si possono mantenere le attività. Dopo un anno di deroga, le concessioni sono state bloccate dai carabinieri del reparto biodiversità di Tervisio, che hanno in gestione l'area. Ivano Sabidussi, imprenditore. Non essendoci un presidio costante durante la stagione estiva, ovviamente rimane tutto un po' alla volontà dei turisti e alla buona educazione di chi frequenta il luogo. Spero io che si possa ritornare in questa situazione perché è veramente brutto vedere il lago così abbandonato e senza servizi. L'appello dei privati, anche dell'unico bar rimasto, è quello di fare sistema. Armando Caus è il titolare del bar. Siccome ci mancano infrastrutture, abbiamo bisogno che il comune ci dia una mano. Il municipio di Tervisio risponde di voler contribuire come intermediario non solo al ripristino, ma al potenziamento dei servizi. Un posto meraviglioso, veramente, veramente bello, incantevole, una pace. Cave del Predil, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo i vincoli causati dal Covid, il turismo austriaco è tornato ai livelli pre-pandemia nella nostra regione e in Austria la gestione dei casi positivi si è molto alleggerita nonostante un nuovo aumento dei contagi proprio nelle ultime settimane. Ne abbiamo parlato con Iris Hofmeister, giornalista carinziana della TV pubblica austriaca. L'anno scorso, a causa della pandemia, tanti austriaci hanno preferito trascorrere le vacanze più all'interno del paese. E nel 2022, invece, tanti si spostano di nuovo all'estero e quindi anche da voi in Italia. Le mete balneari del Friuli Venezia Giulia sono dei grandi attrattori per i turisti austriaci durante l'estate. Da maggio a settembre, da Lignano a Grado, sono migliaia le persone che con le loro famiglie apprezzano sia il piacere del mare che anche quello della buona tavola. Poi naturalmente c'è chi apprezza anche lo shopping o le visite nei musei, nelle città come Trieste, Udine o Pordenone. Qualcuno viene anche per le escursioni in montagna o per il cicloturismo lungo la ciclovia Alpe Adria che porta dalla montagna al mare. Non ci sono restrizioni per quanto riguarda il Covid, ma qual è la disciplina ora riguardo i positivi e l'utilizzo della mascherina? Allora, dovete sapere che dal 1 agosto non c'è più la quarantena in Austria o in Carinzia, quindi chi è asintomatico può uscire di casa con la mascherina FFP2, quindi può anche andare a fare la spesa, a fare shopping o a visitare i ristoranti. Può togliersi la mascherina solo all'esterno se può garantire di mantenere al minimo 2 metri di distanza ad altre persone. Però comunque tante persone indossano lo stesso la mascherina per sicurezza, perché anche da noi stanno salendo di nuovo i contagi. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E questo è il punto sulla pandemia. Sono 214 casi di coronavirus rilevati nella nostra regione nelle ultime 24 ore, su poco più di 1500 test. Il tasso di positività è di poco superiore al 14%, un dato leggermente superiore rispetto a quello del bollettino precedente. L'incidenza settimanale di 413 casi su 100.000 abitanti. Si registrano due vittime, entrambe a Pordenone. Risale il numero dei pazienti con il Covid ricoverati in ospedale, sono 6 quelli in terapia intensiva, il dato è stabile, 230 sono nei reparti ordinari, con un aumento di 3 rispetto al bollettino precedente. Le malattie respiratorie sono la terza causa di morte in Italia e il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni nelle quali l'incidenza è più alta ed è stata tra le prime in cui è partita l'iniziativa nazionale legata al corretto smaltimento degli inalatori, dispositivi tra i più usati. Si intitola Recupera e Respira e a promuoverla è Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale con sede e stabilimenti a Parma, che nelle scorse settimane ha annunciato un investimento da 350 milioni per sviluppare un inalatore spray a basso impatto ambientale entro il 2025. Grazie a un accordo con Federpharma, nelle farmacie sono stati collocati raccoglitori per gli inalatori esauriti. Anche il mare deve respirare e non soffocare per colpa della plastica. Da Grado è arrivato un messaggio ecologico importante grazie all'impegno dei bambini. La forma dello scafo è quella di una piccola batela, l'imbarcazione tipica della laguna di Grado, e al momento di scegliere il nome è bastato cambiare una vocale e l'hanno battezzata Botela. Sono 400 infatti le bottiglie di plastica che compongono la barchetta realizzata dai bambini che hanno partecipato alle attività di animazione sulla spiaggia guidati da Laura Damiani con i ragazzi di Grado Attivo. Hanno studiato gli effetti dell'abbandono della plastica nei mari e si sono poi impegnati nella sensibilizzazione di bagnanti e turisti raccogliendo le bottiglie inutilizzate, sfilata di inaugurazione dal velarium sul lungomare della GIT fino alla spiaggia, alla prova di galleggiamento perfettamente riuscita tanti piccoli pirati dei Caraibi. Il presidente di Grado Impianti Turistici che ha promosso l'evento, Roberto Marin. Una volta i messaggi viaggiavano nelle bottiglie ai tempi dei pirati, oggi invece il messaggio arriva proprio dalle bottiglie, dalla raccolta di questi bambini che permettono un riciclo chiaramente nel materiale plastico, potendo liberare il nostro mare. Ma Ferragosto a Grado è anche movida, impossibile restare seduti con i ritmi dell'estate. E mentre l'allenatore Eddie Reia lancia oracoli sul campionato di calcio, alla spiaggia della Costa Azzurra, serata dolomitica con menù montanaro, salsicce, polenta e goulash, c'è anche Babbo Natale. Sentiamo l'organizzatore Marco Lauto. Grande energia, una voglia di ripartire. Finalmente ritorniamo a vivere, a stare in allegria, a stare in compagnia. Tutti assieme ho voluto portare un po' della mia vita in montagna qui a Grado, far festa, ritrovare quelle sensazioni che un po' abbiamo smarrito in questo periodo. Noi viviamo nel nostro spirito sia montanaro che lagunare qui nei nostri lidi gradesi. Divertiamoci, sia il mare e mi auguro anche in montagna. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Atmosfera festosa anche a Spilimbergo, dove sono riprese le giornate della rievocazione storica della mace, l'antico strumento di misura mercantile usato per la lunghezza della stoffa. Sentiamo. Sfilano dal castello lungo le vie del centro il conte e la contessa con il loro seguito, anticipati da musici e sbandieratori. Sono le giornate della macia a Spilimbergo, rievocazione storica che prende il nome dall'antica unità di misura di lunghezza per le stoffe, la cui raffigurazione si trova ancora oggi in una delle colonne della loggia. Roberto Mongiate, presidente Pro Spilimbergo. Finalmente, dopo 2 anni di stop causa pandemia, si riprende la rievocazione storica. Quest'anno 5 giornate, abbiamo un buon riscontro di partecipanti sia per quanto riguarda cittadini locali che per quanto riguarda turisti. Un tuffo nel passato rinascimentale con il mercatino di San Rocco, con i giochi e gli spettacoli, le taverne e il bivacco storico. E lei, signora, da quanto tempo fa rievocazioni? Che cosa le appassiona? 15 anni, è il periodo, mi affascina moltissimo. Molto bello, e crea una magia, no? È un periodo, sono 2 o 3 giorni di magia. a Spilimbergo. In mattinata in Duomo la messa solenne in onore dell'Assunta, patrona della città, e a seguire il rito del privilegio maggiore con la consegna del cavalierato dei santi Rocco e Zuanne a personalità che si sono distinte: l'imprenditore mosaicista Giovanni Travisanutto, Sergio Iob per il suo impegno quarantennale nell'associazione sportiva US Spilimbergo e la scuola mosaicisti del Friuli. Oggi gran finale, questa sera alle 18:30 il corteo in sfilata, più di 600 figuranti da tutta la regione e da tutta Italia. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Pordenone il fumettista serbo Aleksandar Zograf presenta il suo ultimo libro, Il quaderno di Radoslav e altre storie della Seconda Guerra Mondiale, edito dalla torinese 001 Edizioni. Durante la serata disegnerà dal vivo e il pubblico seguirà il suo lavoro su un grande schermo con il commento del comico e scrittore Alessandro Gori, accompagnato dalla musica folk del trio Fior delle Bolge. Alle 21 allo spazio Wow in via Brusaffieri, era in caso di pioggia al Cinema Zero. Sarà online da oggi Pordenone Legge Poesia.it, lo spazio permanente per dire e fare poesia, coglierne le tendenze, riflettere sulle forme e i temi. La nuova iniziativa dei curatori del Festival Pordenone Legge trova questo sbocco a meno di un mese dall'inizio della nuova edizione, proprio nell'anno in cui il programma dedicherà particolare attenzione alla poesia con un centinaio di protagonisti, tra i più noti il premio Pulitzer Jericho Brown, le voci più importanti della poesia ucraina e tra gli italiani Maurizio Cucchi, Fabio Pusterla e il premio Sabia, Saba Milo De Angelis. A Trieste un nuovo appuntamento per la rassegna Archeologia di Sera, giunta all'ottava edizione dedicata all'Egitto. Alle 20:30 nel giardino del museo di Piazza Cattedrale a San Giusto gli spettatori potranno apprendere l'ABC dei geroglifici con un'introduzione al funzionamento della scrittura egizia e assistere alla descrizione dei due sarcofagi del museo con la lettura dei testi che vi trovano spazio. Protagonista delle conversazioni sarà l'egittologa Susanna Moser. Nello spazio musicale il gruppo strumentale Lumen Harmonicum eseguirà brani da La morte di Cleopatra e Le nozze di Iside, opere composte alla fine del Settecento da Sebastiano Nasolini piacentino, che fu maestro di cappella della cattedrale di San Giusto. Archeologia e musica anche al castello di Solimbergo a Sequalsi, in un evento unico che avrà per protagonista il violoncellista e compositore friulano Riccardo Pes. L'imponente fortezza di Solimbergo, che risale al XII secolo, domina la collina sopra il guado del Meduna. Il concerto si propone quale primo passo verso la valorizzazione del sito archeologico. L'inizio è alle 20 e l'ingresso è libero, ma ritrova alle 19:15 nel parcheggio di Via Vecchia, prenotazione consigliata ai recapiti dell'associazione Blanc. È a Grado invece l'appuntamento della serata, è con la musica a 4 stelle all'Arena Parco delle Rose. Il titolo è Per un pugno di dollari, l'inizio alle 21. La Movie Chamber Orchestra, formazione veneziana attiva nell'ambito della mostra del cinema, eseguirà sotto la guida dello storico direttore Giorgio Tortora un programma di musiche da film, a partire dai brani celebri delle colonne sonore firmate da Ennio Morricone, ma anche da Nino Rota e altri compositori. Parliamo di un altro incendio, questa volta programmato è quello sul mare, lo spettacolo storico di fuochi d'artificio che torna a Lignano Pineta questa sera alle 23:30 davanti a Piazza Marcello d'Olivo. I fuochi pirotecnici saranno lanciati dal pontile a mare ed alcune zattere galleggianti. Vedremo ventagli dorati, nuvole d'argento, fantasmini, paracadute e altre creature del regista dell'incendio del mare, Ciro Manfredonia, che da 27 anni porta avanti questa tradizione a Lignano. Decine gli operatori impegnati nella realizzazione dello spettacolo, ce ne parla il titolare della ditta incaricata, Romolo Iannotta, da Casa Giove in provincia di Caserta. Ci saranno più di 2000 artifici che esploderanno nel cielo e sono prodotti tutti da noi. Abbiamo un'azienda a Casa Giove dove lavoriamo più di 20 persone, sia per allestimento sia per produzione. E ringraziamo qui alla Lignano Pineta che ci fa fare questo spettacolo da anni, insieme al promotore che è Ciro Manfredonia, E ringrazio anche la famiglia Ardito che da tanti anni ci dà fiducia. Quanto durerà più o meno lo spettacolo? Lo spettacolo abbiamo una durata di più di 20 minuti sicuramente. Voi organizzate anche il tradizionale fuoco di Ferragosto oltre all'incendio del mare, quindi due grandi spettacoli in due serate consecutive. Sono due spettacoli impegnativi, comunque cerchiamo sempre di accontentare il pubblico, è la prima cosa, quindi facciamo sempre il massimo. Vedremo Ventagli Dorati, lo sbarco dei Marines, in che senso? Lo sbarco dei Marines sarà una cascata luminosa di più di 150 metri che illuminerà tutto il pontile e tutta la pagoda. Il finale, illuminiamo tutto di bianco. A Tolmezzo il Museo Carnico delle Arti Popolari si inaugura la mostra dedicata al pittore friulano Renzo Tubaro, scomparso 20 anni fa a Udine, circa 40 le opere ispirate al Tiepolo fra disegni e studi realizzati per affrescare la chiesa di San Nicolò di Caneva, che si affiancano agli oltre 4.000 oggetti della collezione permanente del museo, che raccontano la vita e le tradizioni del popolo carnico dal XIV al XX secolo. Iniziano oggi a Palazzo Attems-Pechstein di Gorizia le visite guidate alla mostra del fotografo goriziano 74enne Roberto Kusterle. La guida ogni martedì alle 18 è Alessandro Quinzi, anche curatore della mostra, che si compone di 230 opere tra dipinti, disegni, sculture, installazioni, video, fotografie e molte delle quali provenienti dall'archivio Kusterle e ancora mai esposte. Siamo alla pagina dello sport. Calcio, si è chiusa senza pareggi la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri sera nei posticipi i successi del Napoli sul campo del Verona di Cioffi per 5-2 e della Juventus su Sassuolo 3-0. Proprio partenopei e bianconeri guidano la classifica, ma solo in virtù della differenza reti, visto che altre 8 squadre hanno conquistato 3 punti. C'è anche lo Spezia dell'ex Udinese Gotti. Nella seconda metà della graduatoria c'è invece la squadra friulana che sabato pomeriggio, nell'anticipo del secondo turno, affronterà la Salernitana, un'altra delle deluse al debutto, sconfitta in casa dalla Roma. Atletica leggera, gli europei di Monaco ha chiuso la sua carriera una delle più rappresentative maratonette azzurre, Anna Incerti, udinese d'adozione. La 43enne delle Fiamme Azzurre ha completato la gara che ieri apriva il programma femminile in 2 ore e 44 minuti, lontana dalle prime. La maratona è stata vinta dalla polacca Lisowska in 2 ore e 28 minuti e 36 secondi d'un soffio sulla croata Parlov, mentre il bronzo è andato all'olandese Brinkman. Quinta l'altra azzurra in gara, la veneziana Giovanna Epis, a 30 secondi dalla vincitrice. Apriamo la rassegna stampa. In primo piano la notizia del ragazzino investito da un'auto e ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Poi ancora nessuna risposta dal DNA per la coppia trovata mummificata nella zona di Villa Primavera, alle porte di Udine. Dopo 4 mesi dal rinvenimento dei corpi si attende ancora la conferma sull'identità e il nulla osta alla sepoltura. Antonilia Finotto e Paolo Simonetti, 73 e 66 anni, i loro resti sono stati ritrovati il 13 aprile, quando una vicina di casa aveva lanciato l'allarme spiegando di averli incrociati per l'ultima volta tanto tempo prima. E questo appunto il Messaggero Veneto Online, perché ricordiamo che i giornali quotidiani cartacei non escono il giorno dopo Ferragosto. L'online del Messaggero Veneto parla anche dei risparmi traditi. Sono oltre 800 le persone che hanno reso noto di aver investito i propri soldi con NFT, la New Financial Technology, e che temono non solo di non poter incassare gli astronomici interessi promessi fino al 150% nel giro di 6 mesi, ma anche di non rivedere più un euro del capitale. A certificare questa moneta virtuale è stata però un'accademia di Pordenone, la Bicademy di Guido Giuseppe Pascotto, che offre consulenze e corsi a privati e alle aziende che vogliono affacciarsi al mondo delle blockchain, queste tecnologie condivise che trovano applicazione tra le altre cose proprio nelle monete virtuali. Agrusti, presidente di Confindustria Pordenone Alto Adriatico, ha chiesto di togliere ogni eventuale patrocinio alla B-Academy. Il bilancio di Ferragosto apre la pagina online del Piccolo. A Trieste, turisti in centro, i residenti scelgono il lungomare di Barcola. Questo il titolo. Il quotidiano registra il commento dell'assessore al turismo Rossi. Il riscontro del successo che in questi mesi sta ottenendo Trieste a livello turistico, dice l'amministratore, arriva direttamente dagli albergatori. Le strutture ricettive in città sono piene. Non siamo ancora ai numeri del 2019, ma la differenza è al massimo del 15-20% in meno. Siamo in piena ripresa, dice ancora Rossi, e le presenze registrate in questi ultimi due mesi non si erano viste negli anni precedenti. Sul Piccolo anche la vicenda che vi abbiamo riportato ieri, quella della triestina che su un sentiero fra Arta Terme e Cavazzo ha richiesto l'intervento del soccorso alpino per un attacco di panico. Linda, 37 anni, stava percorrendo una variante del Cammino degli Angeli, sentiero di 250 chilometri che collega Sappada e Trieste. Si è ritrovata in una zona di vegetazione fitta e il rumore di un torrente vicino l'avrebbe fatta andare nel pallone, per così dire. Da qui la richiesta di aiuto. Alcuni uomini del soccorso alpino l'hanno raggiunta e accompagnata a Cavazzo. Il suo cammino comunque prosegue, anche se su tragitti più alla sua portata, rassicura Linda, della quale pochi giorni fa il quotidiano aveva rilanciato l'annuncio della camminata da compiere a tappe con tanto di dirette Facebook e un progetto di docufilm. Linda, scriveva l'articolista in quella circostanza, definendola imprenditrice maratoneta, ha optato per una piccola avventura tra sentieri, casolari e pernottamenti di fortuna, dove non saranno certo gli angeli a scortarla quanto i sistemi social e i canali in rete. Passiamo al Gazzettino Online, edizione di Pordenone. Troviamo una lunga intervista alla direttrice generale di ARPA, Anna Luttmann, nominata 3 mesi fa, laureata in chimica all'Università di Trieste, poi la carriera in ARPA e in Regione nella direzione difesa dell'ambiente. Il titolo dell'intervista è L'ARPA caccia di farmaci nell'acqua, trovate nanoparticelle di antitumorali e antipiretici. Scovare nell'acqua queste sostanze, compresi gli agenti endocrini derivati dalla plastica, che possono avere effetti sulla nostra salute. Anna Luttmann, che ha assunto la direzione dell'ARPA, conta di dotare i laboratori di strumentazioni con enormi lenti di ingrandimento che permetteranno di individuare queste microsostanze che sfuggono ai processi di deporazione. Un lavoro importante, spiega, perché i farmaci assimilati dal corpo finiscono nei corsi d'acqua. Assieme alle sostanze chimiche, nelle zone a rischio, sono tra i nuovi inquinanti che dobbiamo andare a cercare. C'è tempo ancora per qualche segnalazione. Le fotografie fatte come una volta impresse su pellicola. Il Festival Zero Pixel apre le iscrizioni per partecipare alla 9ª edizione della rassegna che comincerà il 17 novembre a Trieste, a Palazzo Costanzi. Il tema scelto è quello degli spazi fisici o simbolici e anche quest'anno ci saranno firme prestigiose. Citiamo per esempio Gabriele Basilico, David Burney, Maurizio Galimberti e Ugo Mulas. L'iscrizione è online sul sito fotografizeropixel.it e c'è tempo fino al 10 settembre. Prima di chiudere, qualche informazione di servizio. A Udine le famiglie che non hanno presentato la domanda di ammissione al servizio di nido d'infanzia entro lo scorso marzo potranno presentare la domanda cosiddetta tardiva da oggi al 30 settembre. La domanda tardiva di ammissione al servizio di nido d'infanzia si presenta esclusivamente online sul sito del Comune di Udine. Per abilitarsi è necessario essere in possesso dello SPID. È possibile anche contattare telefonicamente gli uffici comunali dedicati. A Trieste resteranno chiusi da oggi al 26 agosto la biblioteca e la fototeca dei civici musei di storia e arte di Via Rossini per il riordino e la revisione periodica. Entrambe riapriranno il 29 agosto con i consueti orari. A Duino Aurisina si festeggia oggi il patrono. San Rocco, tutti gli uffici comunali resteranno chiusi. Segnaliamo un corso di specializzazione biennale gratuito per diventare archivisti alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annessa all'Archivio di Stato di Trieste in Via La Marmora. Le iscrizioni scadono il 5 settembre, il bando è online sul sito dell'Archivio di Stato. La Rai bandisce un concorso a premi che dà la possibilità agli abbonati tra i 18 e i 21 anni e ai figli degli abbonati tra i 15 e i 21 anni di navigare sulla nave Vespucci da Venezia a Trieste e assistere il 9 ottobre alla Barcolana. Gli interessati possono mandare una mail a iniziativa.canone@rai.it con i dati dell'abbonato e del figlio o della figlia. Regolamento disponibile sul sito www.canone.rai.it. Per informazione si può anche contattare il numero verde 800 938 362. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 prosegue la lettura del classico in friulano di Don Giuseppe Marchetti. A seguire a tutto beat appuntamento in diretta dedicato alle nuove tecnologie. Al centro della puntata il fenomeno blockchain che ha dato avvio alla cosiddetta terza iterazione del web. Con importanti implicazioni nella finanza e nell'arte, ma anche nella didattica. E poi l'incontro con Andrea Sambucco, 47enne cantante e comico udinese che tutti conoscono come Ruggero dei Timidi. Come nasce il suo personaggio e com'è la vita dietro le quinte virtuali? Sentiremo le sue risposte. Nel pomeriggio la seconda fascia dei programmi radiofonici comincerà alle 14. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Francesca Terranova e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Andrea Fontanotte e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali quando sono le 7.53 in punto. Grazie per l'attenzione e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.